Ad alta voce, edizione 20 anni. Tommaso Ragno legge Panchine di Beppe Sebaste. Scarpe gialle e cielo blu. Poiché da tempo volevo andare nel famoso Veneto a vedere i resti delle panchine, sono stato a Padova qualche giorno prima di Natale. Di Treviso avevo parlato al telefono col poeta Lello Voce, che ci vive e insegna. Di Venezia mi basta dire l'aura e la bellezza ogni volta in attese delle panchine che appaiono in qualche isolato campiello, epifanie al quadrato, e le panchine rosse nei giardini reali di fianco a San Marco. L'ultima volta che ero a Venezia, nello sparso della festa del cinema, provai un piacere speciale ad andare in quel rettangolo di verde pubblico macchiato dalle panchine a pochi passi dall'Hotel Danieli, in compagnia di altre persone indefinibili e sedute. Quanto a Padova, ne avevo dall'infanzia un ricordo in bianco e nero, quello di una chiesa enorme in una piazza ancora più grande, piena di piccioni che mi svolazzavano intorno. Pensavo fosse il Duomo, che è invece molto piccolo, romanico, in una piazza ancora più piccola, ma doveva essere la chiesa di Sant'Antonio, da Padova, che non ho fatto in tempo a rivedere. Avevo letto in internet alcuni articoli sulle panchine di Padova e questa ambigua frase difensiva del sindaco: a Padova ci sono 500 panchine. Se volessi toglierle tutte, comincerei dal giardino dell'Arena e non certo da via Manzoni, dove nessuno si siede. L'effetto comico è che sembrava confessare di volerle togliere le panchine proprio dove la gente si siede, non dove non si siede. Ma mi dava due indicazioni di luoghi, cui si aggiungeva quella di una piazza, Piazza De Gasperi, dove gli articoli dicevano esserci state delle panchine in seguito tolte. Eccomi dunque attraversare col treno una malinconica pascoliana campagna padana d'inverno. Ma già alla stazione di Monselice brillavano al sole delle belle panchine verdi. In quella dopo però, Terme Euganee, al loro posto c'erano seggiolini di plastica con braccioli di ferro. Una visaglia? No. Ma vorrei dirlo subito. Ho trovato a Padova una città bella, allegra e moderatamente irresponsabile, cioè nella norma del consumismo che sta divorando spensieratamente ogni città. Piuttosto, trovarmi in una città a vagabondare deliberatamente per panchine mi ha dato il giusto smarrimento e il giusto raccoglimento per riflettere su una serie di cose, panchine comprese. Uscendo dalla stazione basta camminare dritto su Corso del Popolo per arrivare prima a un ponte e subito dopo all'ingresso del Giardino dell'Arena, allegramente annunciato da un'edicola e un chiosco di frittelle. Nel vialetto principale, intitolato a Giorgio Perlasca, Giusto delle Nazioni, come lo chiama il busto in suo onore, circondato da prati e aiuole, sciamavano studenti delle scuole e dell'università, mentre gli immigrati erano per lo più fermi in una specie di ristagno, non sulle panchine, ma nei pressi di un paio di esse. Uno andava su e giù in bicicletta guardandosi le ruote, come se fosse stupito del funzionamento della bicicletta, affascinato della magia delle ruote che girano. Altri parlottavano fitti. Avevo fatto mentalmente un elenco delle persone che vedevo nel giardino a ora di pranzo. Studenti e studentesse, mamme, uomini frettolosi, immigrati, notando che l'ultima parola era fuori registro rispetto alle altre. Forse che un immigrato non può essere mamma, studente o frettoloso. Mi sono chiesto quindi come mai avessi messo gli immigrati, e in genere li mettiamo, in una categoria a parte. Il che equivaleva a chiedermi come ho fatto a riconoscerli, a parte i presunti tratti somatici. Mi sono risposto: perché sono vestiti male. e male in modo inconfondibile. Non solo abiti a poco prezzo, lo facciamo in tanti, ma anche accostamenti di colori sbagliati e fasulli, perché stanno insieme e parlottano tra di loro, perché si muovono lentamente, spesso strascicando i piedi, perché hanno davvero l'aria di avere tutto il tempo da perdere, perché sono letteralmente degli sfaccendati, più o meno come me. Io però sono più losco, uno che si siede su una panchina libera, sono tutte di legno marrone, e si guarda in giro scrivendo ogni tanto su un taccuino. Per esempio le didascalie di altri busti messi tra una panchina e l'altra. Di fronte a me, quello di Antonio Magarotti, 1891-1966, che, precursore di nuove frontiere, diede voce al silenzio, cioè fondò il primo istituto superiore per sordomuti. Più in là c'è il museo degli Eremitani e dietro la cancellata guardo con desiderio alcune panchine tranquille, ma in quel momento non avevo voglia di fare il biglietto. Ho continuato a camminare e a scrivere. Ho preso nota di un uomo seduto con molta dignità su una panchina, una bottiglia di vino bianco ai suoi piedi, le ginocchia unite per appoggiarsi mentre scriveva su dei fogli azzurri, consultando ogni tanto una cartina geografica o forse una piantina della città, come quella che avevo io, posta sopra dei libri. Un barbone davvero diverso dagli altri. Poco più in là, il busto di una donna, Lina Merlin, 1877-1979, eletta alla Costituente, parlamentare che promosse per tutta la vita la dignità e l'avanzamento sociale delle donne. E mentre scrivo davanti al busto, la mia attenzione provoca l'arresto di altri uomini e donne, tra cui un gruppo charliero di congressisti che parlano a voce alta e in modo allusivo della famosa Merlin, quella della legge Merlin, sogghignando sopra le loro cravatte. Soltanto quando sto per uscire dal giardino noto un diverso tipo di immigrati in disparte. Uomini col berretto di lana in testa, coppie sposate, anch'esse sedute sulle panchine, corpi calmi e sfiniti, non lenti, ma fermi, coppie di donne anziane o donne non più giovani. Cammino verso il centro, che come ormai ovunque vuol dire centro commerciale, non centro storico, a destra della strada con le rotaie del tram. Piazza Cavour, con il busto di Cavour, un'edicola e un bar con le vetrate tipo serra. Poco più in là c'è il famoso caffè Pedrocchi. Una delusione. Un contenitore freddo, nonostante la folla, giovani eleganti, persone senza visibilmente nessuna cultura del caffè, e un'esposizione di bottiglie di champagne all'entrata, esibite a casse. La cultura del caffè sopravvive sulle panchine, ho pensato. Guardo, appoggiandomi fuori dal Pedrocchi all'orecchio sinistro di una delle due leonesse di pietra, le panchine bianche di legno, con strutture di ferro, di Piazza Cavour, poste su una specie di pedana grigia. Sono panchine multiple, double face, dove ci si siede schiena contro schiena. Sembrano fatte apposta per bivaccare, ma solo un paio di immigrati lo fanno. Per il resto sono deserte. Tra il falso caffè e le false panchine scelgo di mangiare al ristorante Breck, scritto proprio così, un vero self-service. È lì che mi raggiunge una telefonata di Fabrizio, amico caro e forse cugino, insegnante di filosofia a Belluno. Viene a Padova per salutarmi. Sono contento. Nell'attesa cammino. Piazza delle Erbe, Piazza della Frutta, Piazza dei Signori, Piazza del Capitanato, cui si accede passando sotto la torre dell'orologio. Tutte bellissime piazze rinascimentali col mercato, collegate l'una all'altra, in cui mi colpisce l'assenza di qualunque panchina o sedile, Scrivo ora sulla base di una statua. Soprattutto Piazza dei Signori, vasta e rettangolare, dove ai lati starebbero benissimo anche delle semplici panche di pietra senza schienale. Avevo voglia di sedermi. E dove invece mi colpisce il numero di appartamenti che si affacciano sulla piazza, anche con balconi, in panchina, cioè con la scritta da affittare. Guardo la gente che passeggia, la gente che compra, che vende. Guardo quelli che si limitano a guardare. Mi siedo a pensare su un gradino. Da qualche tempo i giornali parlano volentieri dei poveri, dei nuovi poveri. Ero stato il primo sull'Unità. Chiedo scusa se parlo di povertà. Era un pezzo sulla pagina della Cultura in una serie sulle eresie. La povertà era l'eresia che mi colpiva di più, la sua invisibilità, la vergogna di dichiararsi poveri, la povertà che non fa notizia, non quella di chi vende un rene, ma di chi non lo vende e si dissimula. Prova del 9. Il deserto che si crea intorno a chi si dichiara povero, lo scandalo di chiedere denaro in prestito che supera ogni esibizione di nudità, ogni atto considerato osceno. I poveri sono diversi dai disgraziati, pensavo, seduto sul gradino in mancanza di panchine, ma anche in mancanza di un bar coi tavolini. Oggi i poveri sono i pensionati, gli impiegati, gli occupati, la piccola borghesia, gli insegnanti. Ma ci sono sempre nuovi disgraziati, come ci sono sempre nuove periferie e nuovi slum. Più poveri dei poveri, in un'evoluzione che è in realtà una regressione sociale. Aumenta il numero di chi vive alla giornata, senza futuro, di chi si abitua senza saperlo, né tantomeno volerlo, a un'assenza di orizzonti. Gli immigrati sfaccendati riportano ad altre epoche storiche, altre aree geografiche, altre frontiere, in un processo di tijuanizzazione del mondo. Ha scritto una volta il filosofo Emmanuel Levinas che la vita ordinaria delle persone richiede più coraggio di quella dei samurai. Quella frase mi ha sempre fatto pensare ai volti e ai corpi delle persone che si vedono nella metropolitana di Parigi alle ore di punta, quelle di andata o ritorno dai luoghi di lavoro. Poi ci sono naturalmente i volti e i corpi di chi cammina nelle strade, le singolarità che compongono la folla, di cui pochi hanno il coraggio di uscire dai ranghi e sedersi su una panchina e guardare se stessi negli altri. È il tema di fondo del capolavoro letterario delle panchine, il romanzo di Georges Simenon, Maigret e l'uomo della panchina, noto ai lettori come la storia dell'uomo con le scarpe gialle. Sono quelle scarpe del cadavere a commuovere Maigret, che intuisce essere state un segno di libertà per l'uomo che le portava. Con l'empatia, che è il suo unico metodo d'indagine, il commissario Maigret percorre l'epopea di un provinciale, il signor Louis, impressionato dall'agitazione della grande città, dalla folla, ma anche commosso dalle vite umili e ordinarie che lottano ogni giorno per tirare avanti. Quando a 20 anni era arrivato nella capitale, quello che lo aveva impressionato di più era stato il costante fermento della grande città, l'agitarsi continuo di migliaia di esseri umani alla ricerca di qualcosa. In certi punti, per così dire strategici, questo fermento era più accentuato che altrove, per esempio alle Halles, in Place Clichy, alla Bastille e su quel boulevard Saint-Martin dove il signor Louis era andato a morire. Ciò che lo turbava all'epoca, in quella folla in perpetuo movimento, ciò che suscitava in lui una sorta di eccitazione romantica, erano quelli che avevano mollato la presa, gli scoraggiati, i vinti, i rassegnati che si abbandonavano alla corrente. Poi aveva imparato a conoscerli. e adesso non erano più loro a impressionarlo, ma quelli che stavano un gradino più in alto, quelli decorosi e a modo, senza niente di stravagante, quelli che giorno dopo giorno lottavano per restare a galla, per illudersi, per convincersi di essere vivi e che la vita è degna di essere vissuta. I testimoni raccontano la doppia vita dell'uomo con le scarpe gialle che, invece di lavorare, si sedeva su una panchina. Qualcuno, un ex collega, lo ha visto seduto su una panchina del boulevard Bonne Nouvelle. Mi sono seduto vicino a lui. Voleva offrirmi da bere in un caffè lì accanto, ma io non ho accettato. C'era il sole e siamo rimasti a chiacchierare, guardando i passanti. La portinaia lo ha visto seduto in boulevard Saint-Martin. La panchina l'aveva turbata. Un uomo come il signor lui, abituato da una vita a lavorare 10 ore al giorno, seduto a poltrire su una panchina, e non di domenica, né dopo una giornata di lavoro, ma alle 11 del mattino, quando tutti gli uffici e tutti i negozi sono in piena attività. L'anonimato conferito dalla panchina, un uomo come se ne vedono tanti sulle panchine del quartiere, rende difficoltosa l'identificazione del colpevole, anch'egli frequentatore di panchine. Maigret ordina a un ispettore di andare a osservare la gente seduta sulle panchine. All'inizio della sua carriera, Maigret era stato di servizio in strada abbastanza a lungo da rendersi conto che ogni panchina ha i suoi abitué, i quali la occupano sempre nelle stesse ore del giorno. La gente che passa non ci fa caso. Chi mai si mette a guardare quelli seduti sulle panchine? Tra di loro, però, si conoscono tutti benissimo. Non era stato forse proprio chiacchierando con la mamma di un bambinetto su una panchina dei giardini di Place d'Anvers, mentre aspettava l'ora dell'appuntamento con il dentista, che la signora Maigret aveva scoperto, senza volerlo, le tracce di un assassino? Vuole che faccia una retata? Assolutamente no. Siediti semplicemente sulle panchine e attacca bottone un po' con tutti. Va bene, capo, sospirò Neveu, che non era per niente entusiasta di quella prospettiva e piuttosto avrebbe preferito continuare ad andare in giro. Non gli passava nemmeno per la testa che il commissario avrebbe tanto voluto essere al suo posto. Anche se Menon evidentemente si sedeva sulle panchine, se non altro perché era capace di scrivere un romanzo all'aperto nel tempo che impiegava la sua donna di turno a fare shopping, e in effetti ne ha scritto un numero a 3 cifre. Nei suoi romanzi c'è una descrizione viva della città e dei suoi abitanti, dei vezzi e caratteri delle diverse classi sociali, i modi di fare, i volti, gli abiti, i pensieri di uomini e donne, con attenzione precisa e compassionevole, come se avesse fatto proprio lo stupore filosofico e ammirato di Levinas per la gente comune. Adesso il sole sta tramontando e io sono seduto su una delle panchine che invidiavo oggi all'interno dei musei civici, di fronte all'ingresso della famosa Cappella degli Scrovegni affrescata da Giotto. Scopro che su queste panchine ci può andare chiunque, anche senza pagare il biglietto. Accanto a me ci sono i resti archeologici romani, vasi e statue tra gli alberi. Com'è bello tutto a quest'ora. Il giardino dell'arena è vuoto e silenzioso. Solo 2 ragazze con delle valigette rosse che bisbigliano sedute su una panchina lungo il vialetto. È il momento degli uccellini, degli animali del parco. La quiete e la città intorno. Mi viene in mente Ginevra. Sarà perché Padova è una città universitaria, di fuorisede. La scoperta del mondo, del privato, nel pubblico, dello spazio proprio, tranne che i cancelli chiudono alle 17:45. Poi mi immergo nel cielo blu stellato di Giotto, che dà sollievo misto a un senso di vertigine. Si sente che è la prima coraggiosa valorizzazione dell'aldiquà, del mondo e delle umane percezioni, quando solo contava l'aldilà e il cielo doveva essere d'oro. Guardo i corpi e la vita negli affreschi, la luce scolpita dalla pittura. Poi lo sguardo deformato si posa sulle panche di legno ai lati della cappella. Quando esco, fuori dal museo, trovo Fabrizio. L'ultima volta eravamo in Salento d'estate, serate passate a cazzeggiare sul mare. Lo facciamo anche adesso coi cappotti a Padova, seduti su un muretto in piazza De Gasperi. La piazza è un quadrato, con in mezzo un giardinetto di erba spelacchiata e qualche albero. Nessuna panchina. Siamo seduti sul cemento che delimita un bocchettone d'aria del parcheggio sotterraneo. Abbiamo chiesto ai passanti se qui vi fossero prima delle panchine. Tanti non so, non ricordo, stupore e perfino timore da parte di due africani che gettavano rifiuti in un cassonetto. Assenza di memoria o di attenzione. È un quartiere di uffici e di passaggio, dopo tutto, palazzi squadrati, materiali freddi, poche abitazioni sotto le luci al neon che si vedono dietro le finestre. Unione Provinciale Artigiani, due bar, un'agenzia immobiliare, cassonetti di rifiuti, molte macchine parcheggiate intorno. È la vecchia domanda che riemerge: che cosa sia abitare? Solo due ragazzi in un bar ci dicono, ridendo, che sì, c'erano delle panchine, ma le hanno tolte da tempo. I bivacchi. Interviene un uomo con la barba. C'era pieno di slavi e di rumeni che ci dormivano. Andate a vedere a Piazza Manzini quanti ce n'è. Quasi si agita. Usciamo in quel che resta del prato. L'unica cosa che cattura la nostra attenzione è il sentiero che taglia in diagonale il giardinetto, come una pista bianca e storta in mezzo all'erba. Senza panchine, dice Fabrizio. Il sentiero è muto e inutile. Poiché entrambi partiremo la sera, non c'è tempo di andare via Manzoni, tranne un rapido passaggio. È una specie di circonvallazione, un viale a quattro corsie che costeggia le vecchie mura della città, lungo le quali c'erano molte panchine e tavoli, frequentati soprattutto dagli studenti di medicina nella pausa pranzo, ed immigrati, naturalmente, dell'est e del Maghreb. C'è un bar che vende kebab. Ufficialmente il comune le ha tolte per ordinaria manutenzione, ma è chiaro che lo scopo era scoraggiare un luogo di aggregazione spontanea. Studenti, varie associazioni, tra cui il Comitato Diritti Sicuri, hanno protestato e scritto lettere fino a organizzare una manifestazione il 3 luglio scorso dal nome Notte Fucsia. Quella bianca fu revocata dal sindaco, cui parteciparono anche transessuali vestiti a festa, e si concluse col deposito di una panchina davanti al municipio. Siamo seduti adesso a Piazza Mazzini, su un'elegante vecchia panchina di legno e ghisa su cui si legge il marchio di fabbrica Fonderie Fratelli Silvestri di Fidenza. Sono panchine perfette. Il traffico di automobili e bus che passa nella piazza, in realtà un'arteria, stradoni di snodo di chi costeggia il centro, diventa brusio. Si vedono le insegne di un ristorante cinese poco lontano. Si sentono fioche le voci dei cosiddetti extracomunitari in una panchina più lontana, dietro la statua, sotto un grande albero addobbato. Si vede che è un albero di Natale secondario, l'albero dei poveri. Ma è tutto impacchettato di lucine e il volume del fogliame ha la forma di una zucca, ma anche del cappello di un pascià. Fabrizio dice di un sultano. E ci mettiamo a discutere se Solimano era il nome di un pascià o di un sultano. E l'uva sultanina. Perché si chiama così? Perché la mangiava il sultano. Davanti a noi, il fianco destro di Mazzini, si vede poco perché è buio, ma sotto di lui c'è un leone di bronzo. Intorno, palazzi, come se ne vedono nelle cinture dei centri storici delle città, nei quartieri vicino alla stazione, per esempio. Ci hanno indicato questa piazza come area di degrado, ma il degrado è dato dal fatto che non è o non è più una piazza, ma un'arteria, dove Mazzini non c'entra più niente, né c'entrano gli alberi, né le panchine, né un progetto abitativo. E questo nonostante gli sforzi dei cosiddetti extracomunitari di abitarla, di abitare le panchine. L'unica parvenza di piazza, nel senso più bello della parola, sono loro, la causa presunta del degrado, l'unica comunità visibile. Stiamo bene, Fabrizio e io, perché sappiamo che queste panchine sono state pensate e fabbricate con cura, pensate per altri uomini, per un'altra civiltà. Sono l'unico elemento estetico di tutta la zona, dice Fabrizio, dove pulsa la vita, mentre l'arteria della circolazione di auto e bus è, anche fuori di metafora, senza sangue. È una sera senza stelle, ma Giotto ha ragione. Il cielo è blu. Tommaso Ragno ha letto Panchine di Beppe Sebaste, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad Altavoce Edizione 20 anni è un programma Rai Radio 3.